Oh ma, non c'è mica mai verso di parlare, ma mai, mai, mai, mai. Sogno un dibattito più vero, una politica più onesta, in cui poter dire quello che davvero ho in testa. Ammettere che non rubano, ma che non li vorrei ariani, che siamo diversi non uguali, però non per questo strani, che i bambini hanno bisogno di genitori di sesso differente, ma che ho tanti amici gay che gli voglio bene veramente, che non voglio che smettiamo di essere italiani, ma che odiare tutti ci fa solo meno. Sogno un dibattito più vero, una politica più onesta, in cui poter dire quello che davvero ho in testa. Dire che ogni tanto anche gli altri hanno ragione, che se ammetto questo sono sveglio, non coglione. Io sogno un dialogo che non si fermi mai, un mondo senza muti, senza sordi marinai. Io sogno un dialogo che non premi mai, un mondo senza ciechi, senza cielo, senza ormai. Sogno un amore più sincero, un sentimento più diretto, in cui ci si guardi bene negli occhi anche fuori dal letto. Sogno che usciamo insieme, stia per, sto bene con te, che sei mio amico, sia a volte più che stiamo insieme, che non ci sia mai nessuna scusa per eludere un perché, che le coccole non siano roba che qualcuno teme, che non si pretenda di spengere e accendere i sentimenti altrui, che le parole dolci non siano abusate né chiuse in casse di bui. Io sogno un dialogo che non si fermi mai, un mondo senza muti, senza sordi marinai. Io sogno un dialogo che non tremi mai, un mondo senza ciechi, senza cielo, senza ormai. Io sogno un dialogo che non si fermi mai, che lavi via dal mondo tutti questi nostri guai. Io sogno un dialogo che non si spaventi mai, che faccia paura al buio, che lo sfidi e lo sconfigga. Io sogno un dialogo che non si cerchi mai, su timori irrilevanti ma li affronti e li pratica. Io sogno un dialogo che non si abbatta mai, che tragga il suo coraggio dal sapersi indispensabile. Io sogno un dialogo.